Allora, dunque, comincio a registrare. Allora, siamo qua con Bruno Pellegrini, che è, si può dire amministratore delegato o dobbiamo dire... No, che se, unico. Quindi cos'è? Una, è un SRL? Che cos'è? Ah, ecco, bellissimo. Monarchia assoluta, che probabilmente stiamo comunque tendendo come sistema in generale tutti verso la monarchia assoluta. Di che cosa? Di Loquis. Loquis, che è una... web application, come si diceva una volta, nel senso che si appoggia su un'infrastruttura abbastanza aperta e poi naturalmente nelle varie istanze, l'app per telefono e tablet e le eventuali altre cose che nasceranno sulla base di questo, di questa web application, chiaramente si adatta al, al dispositivo che usate. Loquis è veramente una cosa nuova e diversa rispetto a qualsiasi altro oggetto che potete usare su, su uno smartphone, perché praticamente, ve la dico in modo molto semplice per chi non la, non la conoscesse, conoscendo la vostra posizione, chiaramente dovete abilitare questa app alla conoscenza della vostra posizione, automaticamente quando passate vicino a un qualsiasi point of interest, quindi un museo, una casa che ha un significato storico, qualsiasi luogo che ha una sua istanza di riconoscibilità storica e culturale, parte immediatamente un file audio che vi fa la, che vi racconta quel luogo. Questo file audio, che oggi chiamiamo forse, diciamo in modo un po' superficiale, podcast, perché il podcasting è una cosa un po' diversa, dovrebbe basarsi su, sull'idea di abbonarsi a un feed RSS, poi nel tempo podcast è diventato qualsiasi file audio, quindi... Comunque questo file audio può essere sia realizzato da un content provider, lasciami dire, professionale, no? Che so, il Touring Club italiano, oppure qualsiasi anche... blogger, influencer strutturato che ha imparato a produrre contenuti professionalmente, sia però anche da dei perfetti scalzacani come me, nel senso che anche io ho il mio canale su Loquis, dove ho, ho raccontato un luogo in modo assolutamente personale e a volte anche assolutamente ignorante, cioè non raccontando ciò che quel luogo veramente dice al mondo, ma ciò che quel luogo rappresenta per me, e soprattutto anche con la libertà di dare io dignità a un luogo che magari prima non ce l'aveva. Cioè io volendo posso creare un Loquis anche su una, su una pompa di benzina, su un'area di servizio, su un albergo a 3 stelle fuori dal raccordo anulare. E quindi c'è un racconto che non è solo quello dei significati universali calato dall'alto da un ipotetico sistema culturale, ma anche un racconto legato al senso, alla somma del senso individuale di ciascuno di noi, perché noi potremmo essere legati a un luogo da una storia che riguarda soltanto noi. Come dicevo l'altra volta, io potrei essermi innamorato in quella stazione di servizio, oppure avrei potuto, magari ho avuto un incidente e lo voglio raccontare. Cioè, e questa è una importantissima rottura del meccanismo, del rapporto, di ciò che ci lega ai media, perché i media tipicamente stabiliscono che cosa sta sopra una certa soglia di tollerabilità e di rivendibilità e di funzionalità. Loquis permette ovviamente l'accesso a, a un sacco di content provider non strutturati, però permette anche al fruitore di usufruire solo della parte strutturata. Quindi volendo tu puoi usare Loquis come se fosse un'audioguida professionale fondamentalmente. E, allora io però mi sono consultato con Bruno prima dicendo: ma vogliamo parlare subito di Loquis oppure vogliamo dire due parole sul rapporto tra contenuti e luoghi in assoluto? Allora vi dovrete cuccare un micro pippone di 10 minuti su questo, poi naturalmente sarete, poi ci sarà un approfondimento dopo, dopo Bruno, quando siete ancora più deboli e posso darvi il colpo di grazia. Perché sta cambiando il nostro rapporto con lo spazio pubblico? Beh, diciamo che la grande sveglia ce l'ha data proprio la pandemia. Perché prima della pandemia, tipicamente quando uscivamo di casa, era perché attribuivamo a un luogo dove dovevamo andare una destinazione d'uso. Prima della pandemia, pensiamo all'ufficio, no? Ufficio uguale lavoro, cioè palazzo dentro il quale io svolgo un lavoro. Oppure la scuola. Scuola uguale palazzo dentro il quale studio. A un certo punto, non perché l'abbiamo deciso noi, non perché siamo geni innovatori, ma banalmente è capitato questo cataclisma ed è successo che scuola poteva essere anche la caffetteria sotto casa. Lavoro poteva anche essere un giardino pubblico. Perché? Perché l'ufficio era chiuso, dovevamo comunque lavorare, dovevamo noi attribuire la funzione scuola o la funzione lavoro a un altro luogo che sceglievamo noi. Questo all'inizio è stato vissuto, mi verrebbe anche da dire giustamente, come un disagio. No, perché? Perché un giardino pubblico non è il posto ideale dove lavorare. Però possiamo noi col tempo capire quale luogo che non sia l'ufficio diventa il luogo ideale per lavorare. E a stento, alla fine, ci siamo arrivati a capire che certi pezzi del lavoro li possiamo fare forse meglio senza dover andare per forza nell'ufficio. Quindi abbiamo acquisito questa flessibilità. Se non fosse stato per la pandemia, non avremmo mai avuto il coraggio di compiere questo passo così rapidamente. Questa frase la sto rubando, essendoci la parola coraggio dentro, la sto rubando a un signore che usa questa parola ogni 2 secondi, che è il mio amministratore delegato, Pietro Labriola, che lui dice: lo smart working, se non ci fosse stato il coraggio, non sarebbe mai partito. La scuola, stesso discorso, l'abbiamo subita, i nostri ragazzi sono stati chiusi a casa a studiare, la casa era diventato il luogo della scuola e quindi la DAD era una cosa penalizzante, distruggeva il rapporto sociale, cioè, ma perché era ancora nella fase in cui lo subivamo. Poi col tempo ci stiamo spostando dall'idea di DAD all'idea di didattica digitale integrata, la DDI, come viene chiamata, e che è un ibrido dove effettivamente ogni funzione didattica ha il suo luogo, che non è necessariamente un luogo coercitivo come è l'edificio scolastico. Se vi sembrano coercitivi oggi gli edifici scolastici, vi dico, se andate a vedere le scuole fatte dai piemontesi, anche qui a Roma all'inizio del secolo, c'è scritto maschi e poi femmine, no? Un po' più là. Quindi per farvi capire, la funzione normativa del luogo arriva fino a distinguere dal genere, e questo con gli unici 2 generi visibili all'inizio del secolo scorso. Oggi ci sarebbero non so quanti ingressi. Comunque, scherzi a parte, quindi quando noi uscivamo di casa, e ora c'è il grande task di riuscire a scrivere col microfono, se questa era casa nostra, noi avevamo alcuni luoghi identificati dalla destinazione d'uso, che so, cinema, allora questa poteva essere la scuola, questo poteva essere l'ufficio, questo può essere, diciamo, leisure in generale, quindi cinema, teatro, bar, quello che ci pare, no? E lo spazio pubblico che attraversavamo era vissuto anche questo come un vincolo, cioè l'idea è tutto quello che c'è qua, perché ci sono delle cose anche qua, sono dei fastidi da superare. Cioè io quando andavo a scuola, il percorso da casa a scuola era qualcosa che sì, vedevo, ma vedevo come se fosse una texture, cioè io vedevo la strada, ma non era nemmeno in 3 dimensioni, il quartiere che si sviluppava a destra o a sinistra della strada, non neanche mi immaginavo cosa ci fosse dietro, perché per me non aveva senso, io non attribuivo un senso. Cioè per esempio, sì, quando avevo 18 anni vivevo alla Giustiniana e andavo a scuola al liceo Boncompagni a Via Veneto, quando ancora esisteva il liceo Boncompagni. Tutta la via Cassia, la Flaminia, vedi Tor di Quinto, prima dei mondiali di calcio, la strada di campagna, eccetera. Era una stanca ripetizione di un quadro a 1 dimensione che per me non aveva nessun senso. Mi interessava solo riuscire ad arrivare a scuola prima dell'orario, se no magari qualcuno si arrabbiava. E poi appena finiva la scuola non vedevo l'ora di tornare a casa. Quindi tutto quello che c'era qua non mi interessava. Che succede con la pandemia? Che per un po' siamo rinchiusi qua dentro, diciamo un paio di mesi, proprio neanche si può uscire, giusto 500 metri, non ve lo ricordate, poi c'era chi aveva il cane. A un certo punto si può uscire di casa e ci sono di nuovo queste direttrici tutte queste cose, no? Ma non ci sono più le destinazioni d'uso. Perché sì, possiamo uscire di casa, ma la scuola è chiusa, l'ufficio è chiuso, il cinema, il teatro, il museo, no? Museo chiuso. Ok? E quindi per alcuni mesi tante persone si sono chieste: ok, posso uscire, ma che cosa faccio? Chi me lo fa fare di uscire? No? I più pigri hanno detto: beh, sto a casa lo stesso, perché tanto fuori non c'è niente. E tante persone hanno cominciato invece a uscire e a dare un senso a luoghi che prima per loro erano solo dei vincoli. Noi a Roma viviamo in una città un po' particolare, no? Abbiamo tantissimo verde. Quasi tutti quelli che vivono in periferia hanno comunque una collina con le pecore vicino, con un sentiero. Ok? Hanno comunque un viadotto sotto il quale ogni tanto c'è qualcuno che fa lo skate park, oppure un centro sociale dove qualcuno proietta un film. Comunque dei luoghi che non nascono per un'attività, non hanno questa funzione normativa, però alcune categorie di persone gli attribuiscono un ruolo. Faccio un esempio: al Flaminio esiste il Ponte della Musica. Il Ponte della Musica, c'è stato per tanto tempo l'idea di costruire uno skate park sotto il Ponte della Musica. Siccome non partiva mai, i ragazzi l'hanno fatto da solo. Se andate là, ci sono sempre 30-40 ragazzi che fanno. Questa cosa durante la pandemia si è moltiplicata, invece che 30-40 cominciavano ad essere 300 e 400 con la birra, perché non avevano un altro posto dove andare. Il centro commerciale era chiuso, la scuola era chiusa, l'ufficio, il cinema, eccetera. In questa fase quello che è successo è che abbiamo cominciato a guardare questo, a guardare quello che stava qua e che prima per noi non aveva alcun senso. Tante persone hanno iniziato a dare un senso ai luoghi. Questa cosa è persino documentata. Se andate su Google Maps, è un periodo in cui aumentano le recensioni di posti che non hanno senso. Cioè, non posso più andare al centro commerciale, ok, però c'è un piazzale con degli alberi lì davanti e ci sono persone che gli hanno dato un nome. Cosa che tra l'altro è possibile fare, perché Google Maps, scusate, quindi Alphabet è la società, compra i dati da OpenStreetMap, che sì, è gratuita, pubblica, quello che vi pare, ma ormai ha creato una LLC, no? Penso che, cioè, ha una sua parte commerciale che vende dati a Google, e adesso li venderà anche a Meta. Quindi, per intenderci, se Antonio Pavolini, in un bosco vicino a casa, che non ha un nome, decide di chiamarlo Bosco di Ponente su Wikipedia, tempo due settimane su Google Maps appare Bosco di Ponente. E iniziano le recensioni del Bosco di Ponente. Io l'ho chiamato così solo perché sono viareggino e a Viareggio esiste la pineta di Levante e la pineta di Ponente. Non è che c'è una ragione, magari lì ci sarebbero mille altri nomi più intelligenti di questo. Adesso quel bosco si chiama così perché l'ho deciso io. Ok? Ed è diventato un posto dove le persone si incontrano. Ora, naturalmente poi con la fine del lockdown questi luoghi sono tornati, no, ad avere la loro attrattiva normativa, la destinazione d'uso, la scuola, l'ufficio, diciamo il cinema. Però nel frattempo abbiamo fatto questa scuola, cioè cominciamo a guardare quello che prima non guardavamo e che si trova in lungo tragitti che noi per prima consideravamo dei vincoli. Quindi è stato il periodo, per esempio, in cui tanti romani sono andati a vedere i musei a cielo aperto, no? Tipo il museo condominiale di Torre Marancia, quello non lo puoi chiudere, o l'ecomuseo Casilino, oppure scoprire banalmente quartieri dove prima nessuno si era mai addentrato, come il Tufello, come Valmelaina. Ma perché? E soprattutto in che modo? Usando che cosa? Usando i contenuti come guida. La street art, per esempio, per molti è stata l'invenzione di un museo che nel frattempo era chiuso. Ok, mi faccio guidare, voglio vedere questi murales, me li segno su una mappa e faccio un percorso e ho deciso io qual è il mio museo diffuso per dare un senso alla fase in cui nessuno organizza il mio percorso. Cioè no, non c'è nessuno che dice: questo è il quartiere dove vai a comprare i mobili via dei prati fiscali, via Gregorio VII, no? Sono questi viali con tutti i negozi con i mobilifici, no? Oppure questa è la zona dove faccio shopping di artigianato, via dei Cornari. Cioè Roma è sempre stata così, c'è il quartiere dove vai a fare quella cosa, vado a Porta Portese, c'è il mercato, cioè no, in realtà ogni luogo è open, un po' come la open internet di cui vi parlavo prima, cioè quella che è fuori dalle grandi piattaforme, ma questo tema lo voglio approfondire dopo. Tutto questo per introdurre che cosa? Una grande affordance, bisognerebbe dire feature, funzionalità in italiano, di Loquis, è proprio il fatto che se tu attribuisci un contenuto generato da un'autorità culturalmente riconosciuta, che so, il Touring Club italiano, oppure generato da una singola persona, tu metti insieme le storie individuali di chi su internet può aggregare senso collettivo a tanti luoghi con il racconto, diciamo, dominante dell'industria culturale. Questo io credo che sia stato uno dei motivi del successo di Loquis, non so se sei d'accordo. Devo parlare al... No, puoi anche appoggiare. No, è molto interessante la riflessione della pandemia, del Covid. Non ci avevo pensato. Che in qualche modo... Non hai letto, stiamo sprecando. No, ho fatto... Però invece è molto, molto interessante. Io l'avrei presa da più lontano, ma questo ha creato probabilmente un frame, no, di riflessione sul senso del luogo. Ti ricorderai il libro di Meyerowitz dell'83, Oltre il senso del luogo, no? Che è un libro di sociologia, di mediologia, forse uno dei capisaldi, no? Che proprio teorizzava, anzi in qualche modo prediceva nel 1983 come l'avvento dei media elettronici stava togliendo il senso ai luoghi fisici, in quanto molte delle relazioni che avvenivano prima nei luoghi fisici in realtà si stavano spostando su luoghi virtuali. Dalla televisione, lui guardava molto la televisione, ma in realtà è molto adattato il suo pensiero a internet e ai social media, dicendo che prima, diciamo, c'erano appunto luoghi di incontro dove si scambiavano le opinioni, che erano deputati allo scambio di opinioni, adesso non è più il bar, la chiesa, la piazza. Quindi tutta questa cosa qui, diciamo, si stava perdendo, che in qualche modo avrebbe avuto una conseguenza che lui neanche riusciva, secondo me, molto in questo caso a determinare, proprio anche sui comportamenti umani, no? Sull'individuo. Chissà cosa sarà l'individuo che non ha più il luogo, il senso del luogo. No? Però quello era un senso civico, invece ora siamo al senso commerciale, cioè lo spazio estrattivo, commercialmente economico, le regole che ti rimpongono non sono le regole della tua cittadinanza, sono le regole della relazione economica. Sì, esatto, sul luogo virtuale. Sì. Però c'è Desertò invece che dice che il senso dell'uomo sopravvive a tutta questa roba qua, ma come tramite le nostre pratiche tattiche, le nostre strategie, riusciamo a rompere, riusciamo completamente a rompere questa roba qua. Desertò, l'invenzione del quotidiano, del 1980, i ragazzi che, siccome non gli fanno lo skate park, decidono comunque che quello è uno skate park. Però bene, infatti, poi facciamo questo. Il punto è: cos'è un luogo? Cos'è un luogo? Cioè, cosa è questo palazzo? Cos'è? Sono mattoni, calce. Un luogo non è nulla se non quello che se ne racconta. Così come in tante situazioni, cioè nulla è se non quello che si racconta. Non siamo neanche noi niente se non quello che raccontiamo o che viene detto o che viene, no, e tramandato di noi, no? Per non rifarmi neanche a Rovelli, la fisica quantistica, questo non sono più gli elementi importanti, ma le relazioni, e quindi il racconto, e quindi il significante, perché un luogo non è nulla se io non te lo racconto, no? Se qui non sapessi che c'è lo Iulmo, che magari qui prima c'era abitato Pavarotti, che prima c'era stato Garibaldi, eccetera, questo luogo sarebbe un palazzo come tanti altri, di cui non saprei neanche decifrare probabilmente la bellezza di questo luogo. Quindi nulla è se non quello che si racconta. Infatti Marco Gè, le pratiche o comunque il... Scusa, infatti Marco Gè chiama non luoghi i posti che non hanno nulla da raccontare, nella logica top-down, per esempio un aeroporto, no? Una stazione, no? ha solo la funzione, no? E poi si potrebbe discutere che poi ogni luogo possa contenere un significante, no? Cioè possa avere qualcosa da raccontare, come un posto. C'è qualcuno di voi che gli viene, il luogo che ti viene in mente, te? Ti viene in mente un luogo, il primo luogo che ti viene in mente? La palestra. Okay. Come la racconteresti la palestra, se la dovessi raccontare? Sulla base della funzione, dell'attività, quello che viene fatto quando la presenta. E perché dovevi venire in quella palestra o in un'altra? Come racconti, cioè, com'è? Cioè, che persone ci sono, che programmi di sport ci sono? Quindi insomma è tanto, cioè è un garage probabilmente quella palestra, come tante palestre, che poi nel racconto diventa qualcos'altro, nel racconto che tu ne fai, un negozio stesso, no? Una discoteca, un negozio, no? Io posso un negozio di vini, no? Ecco, davanti quanti negozi hanno aperto nelle vostre strade, davanti case di cui non sapete la storia, sì, ci avete scritto sotto vini e oli piuttosto che il Maritozzi, ma in realtà la storia di quel luogo, della persona che lo ha creato, la conoscete? Allora, se tutti questi luoghi parlassero, si raccontassero, l'ipotesi di Locris è che sarebbe un mondo molto più divertente da abitare, no? Un mondo quasi che diventa, che ci potesse aggiungere uno storytelling al mondo che potrebbe in qualche modo renderlo un po' più attraente rispetto ai mondi virtuali che invece si stanno costruendo. Perché è come andare a passeggio con un amico che vi invita dall'altra parte di Roma, no? Se state a Roma a Monteverde, ti invito a venire al Pigneto, andiamo in giro e ti racconto delle guerre che si sono fatte al Pigneto, della resistenza dei Mulanis, del negozio che è stato aperto, quindi ti porto in giro e ti racconto, diciamo, una nuova dimensione, nuove storie di quei luoghi. Risulta affascinante se il racconto viene fatto, diciamo, da un amico in un certo modo, no? Quante volte se ne sono parlate, non si vuole. Il macro asilo di cui parlavamo prima. Ecco, conoscete il macro asilo? Per forza, sono un cuore però ecco, prima che arrivasse Giorgio, il macro asilo era probabilmente un posto su cui passavate davanti, sono io e Cristina, e un posto del mamma. Mamma, scusa, il mamma, anche il mamma. Ma anche il magazzino, sì. Sono dei posti che se ci passate davanti non vi dicono niente, se sapete la storia sono dei posti diversi. Tra l'altro sono storie che non sono uniche, sono storie che poi possono essere condivise, cioè diventano patrimonio di tutti, e quando le racconti non togli niente a nessuno, anzi ne aumenti proprio. Ma spesso non c'è neanche l'istituzione che te la racconta. Pensa al famoso lago della ex Snia, no? Quello, tutto il quartiere sa che cos'è, sa qual è la storia di quel lago, ma non c'è nessuno, né ecco, pensate a quante storie, non c'è nessuno che sta lì e ti spiega a quante storie diverse sullo stesso luogo, di diversi luoghi, danno il senso dei luoghi, no? E sono quelli, abbiamo detto che solo le storie danno un senso ai luoghi. Pensate a quante storie ci sono e quante diverse possono essere anche nel racconto per dare senso a quei luoghi, e pensate a un certo punto che tutte queste storie non hanno una piattaforma, una casa, non vengono raccolte, anzi per lo più vengono disperse come lacrime nella pioggia, muoiono con le persone che le raccontano. Tutte queste storie, solo una piccola parte, sono, non dico delle guide, perché le guide c'è proprio l'infinito microcosmo, ma in qualche blog, in qualcuno che ha scritto un libro, che l'ha pubblicato mille copie, che non l'ha fatto più, e il resto sono storie tramandate per lo più oralmente, nel corso dei secoli, e si sono disperse. Cioè, il vero patrimonio dell'umanità, del mondo, era il racconto delle storie del mondo, e non sappiamo preservarlo in nessun modo, che è stato quello che poi ha reso evoluti gli esseri umani, che in qualche modo si sono affermati contro le altre specie raccontandosi i luoghi, non andare lì perché lì c'è la tigre, lì c'è il coso, e cominciamo a dirsi questo prima di tutto, no? Quindi il senso del luogo è importantissimo, non c'aveva una piattaforma che lo raccogliesse, non c'era la geolocalizzazione. Che questo è un altro problema. Sì, però c'era, cioè, non c'è neanche una piattaforma come Google Maps che raccolga le storie. Si poteva fare. Una Wikipedia delle storie del mondo si poteva fare, non l'ha fatta nessuno. Ed è la scatola del futuro dell'umanità, quella che tu vorresti che qualcuno raccogliesse, cioè questo era il mondo, no? Le diciamo storie. Che Wikipedia, allora, cosa è riuscita a fare Wikipedia intelligente? Creare questa infrastruttura interoperabile, non so se sei d'accordo, che associa un'etichetta a un tag, no? Cioè ogni cosa che trovate su Wikipedia e sulle mappe di OpenStreetMap fa riferimento allo stesso database, perché OpenStreetMap e Wikipedia hanno lo stesso database, e quindi ogni testo, foto, immagine, ma anche luogo, eccetera, appartiene a una categoria a cui viene associato un valore. Anzi, questa cosa potrà sembrarvi molto banale, ma è l'unico standard de facto in questo momento che identifica degli oggetti che stanno nello spazio fisico, perché per esempio in tutti i meravigliosi discorsi che sentite fare anche dagli altri colleghi di questo corso sui sistemi di catalogazione, dei reperti archeologici, delle sovrintendenze, eccetera, e tutti mi dicono è meraviglioso il mio sistema, si chiama ABC, però non parla col sistema DEF, no, non sono interoperabili, sono tanti sistemi di catalogazione che faticosamente trovano a un certo punto un accordo per poter essere consultabili su un solo luogo, ma non sono veramente interoperabili. L'unico sistema interoperabile che esiste è quello di OpenStreetMap e della Wikimedia Foundation, e infatti non a caso quasi tutte queste applicazioni, non so se l'ho questa faccio una figuraccia. No, prendiamo i dati della Wikipedia per un primo livello, perché poi il problema tra virgolette di Wikipedia, che però non poteva fare altrimenti, è che per ogni entry, per ogni c'è cioè una sola voce. Sì, certo. Invece voi vorreste perché ogni luogo può essere raccontato in diversi modi, se non devo per forza farne la somma. No. Tra l'altro con tutti i problemi che adesso ha Wikipedia nel controllo, nelle verifiche, nelle modifiche, no? Per metà della roba del sapere che non puoi fare niente. Se state col telefono il navigatore di Loquis acceso, che conosce la vostra posizione, camminate. Possiamo far ascoltare un po' di quelli che sono ascoltati, però questa era per fare diciamo, un'introduzione rispetto all'importanza di queste storie, no? Le storie sono importanti, sarebbero forse, dovrebbe dovuto essere un progetto dell'UNESCO quello che abbiamo fatto, però ci siamo messi in testa che conoscere queste storie e ascoltarle e poi anche condividerle potesse interessare una fetta importante delle persone che è composta principalmente dai turisti, dai viaggiatori, da quelli che quindi visitano nuovi luoghi, diciamo, non quelli che trovate qui sotto, ma diciamo quelli che magari vanno a guardare i borghi, i paesi, anche parte di questi, no? Che però hanno proprio la voglia di conoscere i luoghi, le persone, le cose che sono vissute, quindi a quelli che potete importare, è una fetta diciamo, vasta comunque di popolazione assetata di conoscenza e curiosa, che in qualche modo queste storie gli piace ascoltarle, creando con l'idea appunto di organizzare, l'idea è quella di raccontare tutte le storie del mondo, chiaramente non ci arriveremo mai, ma è un best effort, è un orizzonte. Quindi di fare in modo che in qualche modo si riesca a raccogliere e a organizzare e a diffondere tutte le storie del mondo, no? Questa era la nostra idea. Chiaramente ci abbiamo cominciato a vedercela in pratica con uno strumento che potesse utilizzare le tecnologie più avanzate in termini di geolocalizzazione, eccetera. Quindi c'era lo smartphone in tasca che può consentirci di avere questo, di essere dovunque, di poter guardare e sapere la storia di quello che c'è davanti. Storie di ogni tipo, storie che potevano essere il film che è stato girato sopra quel terrazzo, l'assassinio che è stato fatto sotto quel portone, il personaggio famoso che ci ha vissuto, piuttosto che racconti di altro tipo. Li ascolteremo. Tutte queste storie le vogliamo raccontare, le vogliamo organizzare e le vogliamo diffondere con un formato che è quello dell'audio, che non solo rende unica la piattaforma, perché come dicevo non ce ne sono neanche di testuali di piattaforma, ma che lo rende fruibile, facilmente ascoltabile, soprattutto quando sei in movimento. Questo è quello che noi vogliamo fare. Allora, per farlo abbiamo dovuto ragionare e diciamo risolvere alcuni problemi. Il primo è raccogliere tutte le storie del mondo. Come si fa a raccoglierle tutte? Sicuramente non facendo l'editore. Non posso raccontarle io tutte le storie del mondo, non potrei fisicamente farlo. C'era un progetto molto simile all'Opis, una decina d'anni fa, che si chiamava The Tour, quindi diciamo, no? The Tour Man, era stato fatto dal fondatore di Groupon, ed era simile all'Opis, solo che non è riuscito diciamo, a crescere, nonostante avesse il supporto della Silicon Valley, si è tornato a San Francisco, perché le storie le voleva raccontare lui, pagava lui qualcuno per raccontarle, ma come si fa? Le storie sono nella testa di chiunque, sono nella testa della vecchietta della via che si ricorda. Quella motivazione che spinge una persona a raccontare una storia è molto più forte se è personale piuttosto che se qualcuno ti dice che ti dà un guida. E quindi lì c'è stata la prima soluzione, comunque la decisione è stata quella che la piattaforma che avevamo in mente non poteva che essere open access to publishing, chiunque avrebbe dovuto e potuto utilizzarla per raccontare le storie. Poi dopo abbiamo comunque... Senti, però questa cosa ha spaventato un sacco di tuoi potenziali. Sì, no, sì, però venivo cioè, da un percorso anche mio che in qualche modo era abbastanza esperto sul crowdsourcing, comunque sì, tutti lo possono raccontare, però c'è anche un secondo componente sul più alto sull'organizzazione. Deve esserci un metodo e un sistema organizzativo, perché se tutti possono raccontare, mi posso anche trovare qualcuno che apre un canale e che tira due luci, no? essendo audio, questa cosa dà molto fastidio a chi ascolta, più del video, nel senso il video, la grafica li puoi skippare, l'audio non lo devi ascoltare tutto. Quando vuoi ascoltare un podcast o un audiobook è quasi dall'inizio alla fine, inizia a andare avanti, perché poi non puoi tornare indietro, non capisci niente, no? Quindi comunque andava verificato, andava fatto un modello open access, ma con dei criteri di crowdsourcing o comunque di verifica dei contenuti che potessero essere demandati alla cloud, ma che ci consentissero in qualche modo di evitare che ci fossero delle aberrazioni sulle storie, che fossero comunque tutte catalogate, tutte taggate, perché c'erano molti ruttatori. No, però c'è gente che prova a raccontare delle storie, non ce la fa, non sono di qualità, in qualche modo devi taggarle. Okay. Devi anche riconoscerle, devi saper dargli una categorizzazione, un tag, sono storie personali, sono storie di uomini, di persone, cioè in qualche modo devi riuscire a dare un'organizzazione, perché lì viene il problema. Ok, risolto il fatto che tutti possano ascoltarle, poi intanto comunque andava in qualche modo fatto in modo che tutti volessero raccontarle, no? C'era comunque questo aspetto di Wikipedia, di comunque un primo livello di racconti ce l'ho già a disposizione, e quello di Wikipedia lo prendo e lo riscrivo totalmente per renderlo un podcast, perché in questo modo posso avere comunque 4 milioni di storie sui luoghi del mondo pronti. Certo non bastano, perché devo quasi poi andare in verticale, cioè Santa Maria Maggiore non è solo quello che mi ha scritto Wikipedia, magari anche un altro racconto di un film che ci sarà girato, di un'altra cosa, come dicevo prima. Quindi open access / intelligenza artificiale e Wikipedia, tutti i racconti del mondo. Adesso ce ne abbiamo, appunto, arriveremo a 3-4 milioni alla fine dell'anno, ma potrebbero essere potenzialmente centinaia di milioni. Quindi il problema è l'organizzazione, perché c'è già questo problema: se usate l'Office a Piazza Navona, vi vengono raccontati, ci sono probabilmente 100-200 storie a Piazza Navona, e quindi il sistema dovrà imparare a riconoscere quando raccontare le storie a chi, no? Perché altrimenti arrivi lì, il sistema dovrebbe sapere che tu è la prima volta che vai a Piazza Navona in qualche modo, che comunque sei turista e stai andando lì per dirti intanto il contesto della piazza, e dopo scendere magari a raccontarti la storia del ciabattino che è inciampato e si è ferito, bla bla bla. Quindi devi riuscire a categorizzare le storie, così come magari anche a selezionare la qualità, no? Perché magari alcune storie si ripetono anche, io non posso proibire di raccontare pure più volte la stessa storia, però devo riuscire a riconoscere che quella è una storia simile, perché c'è tutto un lavoro da fare veramente in organizzazione. Quello che si vede di più del lavoro che facciamo è quello della parte finale, no? Della fruizione. Di cosa ce ne faccio? Tutto questo deve essere facilmente, non è neanche semplice, rintracciabile, ascoltabile attraverso web, attraverso mobile. Facciamo ascoltare qualche storia, ma giusto per darti un'idea. Dimmi tu, fai tu. Allora, questo era per dire una... questa è Valeria Biotti, è una giornalista di Radio Radio, di Roma, eccetera, che ha fatto delle storie satiriche su alcuni luoghi particolari di Roma. Ce n'era uno, beh, ce ne sono tanti, non so quali vuoi ascoltare, però... L'INPS. È amplificato, no? Sì. Senza giri di parole, si presenta come una struttura fatiscente che potremmo definire un casermone in disarmo, straordinaria metafora visiva del nostro sistema pensionistico. Alle prime luci dell'alba, i fortunati che si troveranno a passare da queste parti potranno assistere ad un rito ancestrale, la distribuzione dei prenumeri, entità che gli stessi matematici stentano a definire se non all'interno di un sistema non euclideo. Dalla mattina presto in poi, quindi, saranno visibili assembramenti di bella gioventù, attempati serpentoni e file chilometriche che culminano in allegre risse. Imperdibile il fenomeno della caduta delle penne, riservata al pubblico alle ore 12 in punto, davanti alla quale consigliamo di esprimere un desiderio. Vi trovate in un luogo dalla spiritualità potente, simbolo della coesistenza tra religioni, tradizioni e culture differenti. Infatti, con lo sguardo bonariamente rivolto verso le auto in doppia fila, qui riposa, traffico permettendo, una statua della Madonna. È poco noto che tempo addietro essa, sentendosi trascurata, abbia deciso di compiere il miracolo. Centinaia di bambini, uomini e donne si sono ritrovati ad affollare all'unisono la zona antistante la busta di chieta, armati di telefono cellulare puntato su di lei, Nostra Signora dei Pokémon. Dando prova d'accoglienza in tempi già bui, ospitava infatti un rarissimo esemplare di Pokémon di cui i devoti all'applicazione Pokémon Go avevano letto solo su guide apocrife di ignoti hacker. Questo luogo si può definire dunque... Questo deve far vedere proprio uno stile completamente diverso. Quest'altro è un podcaster che ha uno stile molto particolare perché racconta i luoghi in presa diretta. Mentre ci va, proprio mentre cammina. Risulta che io sono già dentro Salle, io sotto questo fontanone ho imboccato una strada sulla destra che mi sta portando alla vecchia Salle, dove dovrebbe stare questo castello. La strada è abbastanza diroccata e ci stanno cartelli che segnalano il pericolo di orsi, il pericolo per gli orsi, per gli uomini che vanno in macchina, ovviamente non è il contrario. Mi sono fermato a chiedere informazioni, a chiedere perché insomma è abbastanza lontano da Salle città, da Salle vecchia. Questo per dire che è diverso. Per esempio faccio ascoltare due cose. Uno è un contenuto su un luogo che si chiama Terra Nera, fatto sulla base di Wikipedia, no? Cioè il lettore, quello con la voce suadentissima che legge le vostre storie di... Terra Nera dal passato medievale. Questa frazione di rocca di mezzo nasconde tra le sue origini un mistero legato alla scarsità di documentazione, con tracce che risalgono almeno al XII secolo. La chiesa parrocchiale dedicata a San Lorenzo Martire, edificata nel XVI secolo, è uno dei suoi principali punti di interesse. Non si hanno notizie di personaggi famosi legati a questo luogo, né di particolari monumenti, se non per il borgo stesso che rappresenta un esempio di architettura rurale montana. Questo per esempio viene da Wikipedia, è stato riscritto e è stata utilizzata la voce di Pino Insegno, rielaborata con l'intelligenza artificiale. Quindi questa è l'intelligenza artificiale con l'intonazione di Pino Insegno che legge. Ed è quello che appunto... Cioè, volendo tu potrei anche dare la funzione di dire con che voce poi venga letto, no? Sì, sì. Alla fine sì. Però guardiamo appunto lo stile. Questo è il primo livello, una descrizione quasi da audioguida. Lo stesso luogo raccontata, credo che sia questa, da una studentessa allora della scuola Holden. Una grande mappa collettiva d'Italia, tutta da ascoltare. Scopri 100 voci per 100 luoghi. Il progetto nato dalle storie e dalla creatività della Locus Factory. Ma vedere lo fa amarla, amare solo lei e amare per sempre. La prima volta che ho visto Terra Nera, aveva il campo coperto da un velo nero. Il sole bruciava le pareti delle case incastonate tra la fredda pietra. E ogni cavo spudorato in cerca di qualcuno in grado di ricambiare il suo sguardo infuocato. Non c'era traccia delle fate dai capelli argento. Piangevano raccolte nelle antiche dimore che, come loro, trasudavano lacrime salate. Piangevano tutte, tranne una. Cecilia, la regina dei ghiacci, lei se n'era andata e non avrebbe pianto più. Quel giorno, tornando dalla chiesa di San Lorenzo, ho pensato che se quelle mura erano in grado di trattenere il gelo invernale durante l'estate, forse potevano fare la stessa cosa con le anime delle persone che le avevano abitate. La prima volta che ho visto Terra Nera me ne sono innamorata, anche se era triste, anche perché era triste. Ho amato le spine dei cardi blu che crescevano selvaggi ai lati. Questo è chiaramente una storia più... Posso dire una cosa? Come si concilia il fatto dell'essere registrati con una bassa qualità? Cioè, nel senso, io una roba del genere, dopo i primi 30 secondi che l'ascolto, impazzisco, non riuscirei ad ascoltarla. Allora, questo è il livello più artigianale. Quello, per esempio, del podcast di prima, in realtà segue gli idee del podcast. C'è una voce... E questo è classificato proprio come livello artigianale, quindi diciamo ci arrivi se tu vuoi ascoltare decisamente questo. Quello fatto, per esempio, quello che arriva principalmente alle persone, proprio per la categorizzazione della qualità che stiamo facendo, proprio per evitare che le persone arrivino cose che li possono ispirare, a meno che non le vogliono ascoltare, perché poi ci sono dei racconti fatti dalle persone, per esempio del Tufello, che tu hai la vera voce delle persone, anche se fai fatica, però sono quello il contenuto, è quello il bello dell'ascolto. Come intervista. Cioè, lo scegli all'origine. Cioè, se all'inizio imposti l'app in un certo modo, tu non ascolterai mai una di queste storie, diciamo, no, nel senso, mi è difficile ascoltarle e quindi preferisco chiederle piuttosto che ascoltarle. Chiederle in che senso? A chi, però? Se stai girando per tu fai sempre chiederla, funziona come, non lo so, una domanda. No, nel senso chiederla sì, però magari questa persona non c'è più, non ce la puoi chiedere, no? Quindi se ti faccio ascoltare la storia di una persona intervistata sul luogo, no? Per esempio, questo qui dovrebbe essere Paolina. Adesso li trovo un attimo. Ma la persona intervistata sul luogo ha una voce verace, magari anche una voce antica, perché è una persona romana che ti racconta di quello che è successo. Quella non la trovi più, probabilmente poi morirà, non ci sarà neanche più, non la trovi andando a bussare per casa. E invece è bello quando stai nei luoghi riuscire ad ottenere queste storie. Ed è importante anche la tua riflessione, nel senso che poi ci sono anche ritrovati, anche lì, l'intelligenza artificiale, che probabilmente una storia del genere la aiutano a pulire e a rendere più ascoltabile. Quindi anzi, va benissimo, ci sta molto, perché l'audio è importante, l'audio è stato sottovalutato per anni, no? Perché su internet c'è stata la tirannia dello schermo sempre, perché è lì che facevi i soldi, no? Le eyeballs, dovevi più portare le persone altro schermo che facevi i soldi, no? E quindi si è dimenticato il formato audio, se vogliamo. Adesso sta avendo una grande rivalutazione. È un formato fantastico perché si adatta, cioè io posso raccontarti mentre guardi, quindi dà una cosa in più. Però d'altro canto è anche molto pericoloso, perché l'audio, se non è pulito, dà molto fastidio, diventa rumore, no? Da voce diventa rumore, quindi devi stare attento a farlo entrare, non lo puoi skippare, come dicevo prima, cioè quando tu vedi qualcosa che non ti piace su TikTok o altrove, tu in mezzo secondo skippi, l'audio ha più difficoltà, quindi devi stare attento. Quindi ci sta anche un pensiero anche su migliorare la qualità delle storie, che passa dalla, intanto insegnare a raccontarle meglio, a... e quello ci sta, diciamo, come lavoro anche che facciamo noi a livello, se vuoi, educativo in giro, a dare degli strumenti tecnici per migliorare le storie e comunque sia a cercare di organizzarle sulla base anche appunto della qualità della storia, del contenuto e della forma, se vogliamo, che la piattaforma deve riconoscere. Non si può migliorare con l'intelligenza artificiale, cioè nel momento in cui, adesso non so se è come Spotify, io carico e probabilmente passo per una serie di controlli, immagino, non lo so, e nel momento in cui io mando questo mio file audio in cui racconto qualcosa, non si può direttamente migliorare? Quello già, diciamo, avviene sulla limitazione dei rumori, eccetera, ci sono dei filtri che vengono già utilizzati. Credo che comunque ci sia intanto un aspetto qui, perché questo per esempio è adesso ti faccio ascoltare questa storia, questa la senti male, ma ti assicuro che è perfetta, la qualità nei dintorni di Roma, la senti male qua, che vale la pena. Quindi se togli il filtro di questo speaker qua, questa sarà fatta dallo studio di registrazione, Luca e Paolo, uno dei migliori sound design. Il calcio fiore, però ti dà fastidio anche questo, lo so, no? Il calcio fiore, sì, no, mi dà fastidio anche questo perché è troppo rispetto. Sì, però questa, diciamo, è quella che tiene di più sull'utente, verificate, quella che piace di più all'utente quando stai in macchina, è stata fatta apposta per ascoltarla in macchina, infatti è il canale fatto da Autostrade per l'Italia per raccontare, diciamo, i caselli d'autostrada, no? Quindi anche lì dipende da dove sei, le storie che sono che tu ascolti in macchina, per esempio, sono diverse da quelle che puoi ascoltare a piedi. Quindi o da casa. Puoi impostare l'app in varie modalità di no, l'app ti riconosce anche sulla velocità, sulla situazione. E quando sei veloce cerca di non darti nella funzione navigatore storie lunghe, perché ci sono anche le storie lunghe, adesso abbiamo ascoltato storie corte. In realtà ci sono delle bellissime storie, per esempio quella lì sui luoghi della musica di Roma, di Milano, di Bologna, piuttosto che De Rive, di Emma Stoccolma, e altre che sono bellissime, sono storie che però sono di 20 minuti circa, che chiaramente non ti ascolti mentre cammini, da quello, diciamo, non sparti acque. Quelle storie lì te le ascolti quando sei a casa e hai il tempo di ascoltare i 20 minuti, le altre che ti do quando invece passeggi o quando sono, devono essere per forza più piccole. Eh sì, perché dopo 40 metri che passeggi, magari in una città come Roma, a 40 metri dopo c'è un'altra cosa che potrebbe... Esempio, questa è molto carina di Emma Stoccolma, che era... Questa è fatta da Cora Media, tra l'altro, quindi cioè, livello top italiano sui podcast. Vivo ancora oggi. Vicino al finestrino, in una carrozza di 6 posti, in super economica. in tasca ho pochi soldi. Viaggio con uno zaino, due paia di pantaloni, un Walkman e una cassetta di musica rap francese. Qualcuno si toglie le scarpe, le lascia fuori dalla porta e si mette a dormire. È bello viaggiare di notte, con il rumore delle ruote che corrono. Questa te l'ascolti per 20 minuti, quindi è diverso per esempio dal resto. Ecco, tutto questo fa parte del lavoro che non finirà mai, appunto, di poter raccogliere tutte senza evitare che qualcuno le racconti, perché le storie poi magari le puoi riraccontare, anche lì stiamo pensando che qualcuno le possa scrivere, qualcun altro le possa invece vocalizzare, improvvisare, no? Perché c'è anche questo, c'è gente che non è capace di raccontare, comunque non riuscirà mai a raccontare una storia, anche se è bellissima la storia, non riuscirà mai a raccontarla bene. Ci sono quelli che invece raccontano storie bellissime, anche se non c'è il contenuto, che ti tengono però così, cioè Carlo Infante della situazione, vai a scuola, ti tiene così e poi vai. Però no? C'è anche il contenuto, certo. Però è quello, allora lì sarebbe proprio da migliorare tutto e sarà un processo che magari fra 20 anni avremo tutti quanti le tecnologie, anche di intelligenza artificiale, per cui una bella storia, un racconto, io lo aiuto la persona a raccontarla. Senti, io ho un paio di domande da farti. Una riguarda il famoso aiuto alla persona a raccontarlo, ma la tengo in un cassetto perché è un po' controversa. Poi c'è un'altra, e cioè, io prima che Bruno Pellegrini inventasse l'Opus, mi aspettavo un bel giorno che Autostrade per l'Italia, oppure Trenitalia, oppure Italo, creassero un'applicazione proprietaria. Cioè, una cosa che non è aperta su una mappa infinita, no? Perché l'Opus può essere usata, adesso prevalentemente italiana, però diciamo che può spaziare ovunque, volendo. Io invece mi aspettavo, invece che un'idea tipo la tua, che le ferrovie dicessero: come intrattengo le persone sul treno, no? Adesso che la tecnologia mi permette di farlo, e quindi Trenitalia sviluppasse un suo canale editoriale, e quindi tutti i posti che si vedono dalle ferrovie, cominciando da quello che ho frequentato, no? Ecco, la cosa interessante è questa: adesso un'idea del genere, esistendo l'Opus, non avrebbe più senso. Adesso ferrovie ed è diventato un content provider di l'Opus, cioè la logica, se ci pensi, è il lock-in simile a quella su, meno male per l'Opus, sì, meno male per l'Opus, dico, è simile al lock-in di Facebook, dove o di Meta, anche, no? Se poi alla fine è anche una convenienza, ogni comune dovrebbe avere lo 0,5% ha creato la propria audio guida, no? In alcuni comuni sembra sono andato, dove c'è Castello Farnese, com'è? Caparola. C'era un QR che rimandava una guida, quindi ci sono, diciamo, su 10.000 comuni italiani più o meno 500 hanno fatto l'audio guida. Però insomma, dovrebbero salire sulla tua piattaforma. Stanno salendo sulla piattaforma, perché un'audio guida ti costa tanto, non riescono mai a mantenerla per più di 2 anni, è fatta tipicamente male, non è mai aggiornata, quindi sì. Esiste una convenienza per avere una piattaforma di riferimento perché tutti i comuni, e quindi essendo istituzioni con canali ufficiali, possano creare il loro racconto sull'Opus, no? Anche in termini di code, di economia di scala, di sinergie tra le persone, cioè se io vado a Mantova, dove c'è Neri Marco Re che mi racconta i posti di Mantova, esco da Mantova, magari sono a Ferrara, devo comunque ritrovare l'Opus, è bello ritrovarsi. A quel punto, secondo me, hai raggiunto le famose critical mass, sì, perché la cosa è esatto, e vai avanti quella sola, che è quello che si spera, diciamo. Però non sottovalutare appunto che c'è moltissimo da fare, proprio su tutti gli step che ho fatto, come poi è stato sottolineato, no? Quindi anche per la qualità, per il riconoscimento della qualità, per il miglioramento della qualità. Magari fra 10 anni vorremmo rivocalizzare tutte le storie che abbiamo, perché avremmo trovato un sistema per cui addirittura ti viene raccontata quella stessa storia a ciascuno in un modo diverso, che già è possibile, no? Già è possibile, ma ci costa. Cioè io potrei, sulla base della persona che ho davanti, che usa l'Opus, sapere che a te le storie ti piace raccontarle in un modo entusiasta, piuttosto che in un modo didascalico, piuttosto che in un modo aneddotico, no? E quindi addirittura avere diversi modi di raccontare una storia, non più caricando i file audio, ma facendoli interpretare in tempo reale, che è un'altra soluzione che stiamo sperimentando. Adesso l'Opus si basa su un caricamento di file audio, no? Mentre attualmente le tecnologie consentono di realizzare quell'audio in tempo reale, cioè ChatGPT ti parla senza che tu stai ascoltando un file MP3 o quello che è, non c'è un file, certo. No? cioè chi parla in tempo reale, chiaramente con alcune ancora complicazioni perché c'è un lag time eccetera, però in futuro tutto questo archivio di file audio che abbiamo fatto probabilmente non servirà a niente. Le storie saranno degli oggetti, sì, che poi diventeranno, potranno essere raccontati in modo diverso, in modo tale che a te te lo racconterò veramente bene. Cioè, pensa cosa potrà diventare. No, diciamo che un po' questo, chiaramente a me personalmente un po' spaventa, ma sicuramente avrò io delle tare psicologiche, per cui l'idea che invece che delle persone con i loro problemi, con le loro inadeguatezze, con i loro difetti di pronuncia, con tutto ciò che le identifica come persone, spariscono. No? Cioè spariscono, sparisce la parte della persona che sta parlando, diciamo con tutto quello che anche non va. Infatti un'altra cosa un po' su cui magari io sono un po', lasciatemi dire, talebano in questo alla rovescia, e cioè alla fine quando tu dici educare le persone a raccontare le storie, che modello c'ha in testa? Il modello radiofonico, il modello broadcast o un altro ipotetico modello Loquis che io non vedo, perché ma ci sono diversi stili. Infatti noi non, per esempio hai detto a me piace moltissimo lo stile on the road, cioè delle persone che raccontano le storie quando sono lì, ma mi sento molto più calda, cioè mi sento in medesimo. Crognali è uno dei più bravi probabilmente in questo, no? Perché addirittura anzi, ma ho visto un cane, mi sta inseguendo, senti, sembra di stare lì, però nel frattempo ti racconta la chiesa, quindi molto, a me piace molto quello stile lì. Poi chiaramente ci sono invece degli stili un po' più inquadrati, che è lo script con lo speaker che ho utilizzato. Ma anche le sigle, ma io quando sento la sigla di Cora è già una cosa. Cioè, entro in un mondo che è la promessa che ha fatto questo gruppo editoriale di creare dei contenuti indipendenti ammantati di un velo di novità e di cambiamento rispetto a un mondo editoriale ingessato, ma comunque professionale. L'ho detta tutta, e dietro c'è chiaramente, come si chiama, Calabrese, no? Se non sbaglio, chi è l'amministratore delegato? Sì, ma dietro c'è Calabresi. In realtà la mente è Giannani e gli ex Offside, no? Esatto. Allora, Cora a un certo punto compra Will Media, no? Se lo compra da, tra l'altro, da praticamente da Calenda, se non sbaglio. Quindi qua, diciamo, dietro si porta dietro anche una certa visione necessaria dell'innovazione, che non è così diciamo universale come è aperta, come invece un'offerta variegata come quella che ti può arrivare ascoltando le storie personali. Cioè io credo che ci sia un grande valore anche nella diversità, sì, e nella non inquadrabilità e nemmeno, lasciami dire, nella comprensione. Per esempio, se tu intervisti qualcuno, gli chiedi, gli fai domande, sì, è più facile per lui raccontarlo. Cioè la stessa persona, tu vai in intervista, sì, la signora che ha aperto la porta, di motivazione, te la racconta, il coinvolgimento emotivo, questo è il sistema. Cioè noi quello che infatti cerchiamo adesso di fare su alcune corsi eccetera è di andare a raccogliere le storie, perché le persone da sole non te le raccontano, comunque si mettono lì e cominciano, sì, a parlare. Hai presente il podcast Storia di Carla, di quella, sì, quella ragazza che aveva la madre che aveva fatto, se non sbaglio, la resistenza, oppure ti raccontava gli episodi del fascismo eccetera. C'era chiaramente un legame importante tra queste due donne, una giovane e una più anziana, e proprio grazie a questa dimensione relazionale, che poi alla fine il racconto del fascismo con gli occhi di una persona che non si sente in obbligo di dire per forza la dimensione storica, ma semplicemente ti racconta che cosa è stato per lei, magari andare a fare la figlia della lupa un pomeriggio poteva anche essere stato un bel pomeriggio per lei, no? E quindi molto spesso per le storie anche più belle sono anche cose storiche, testimonianze, aneddoti, no? Che, sì, ecco. Se io vado, scusa, vicino allo stadio dei Marmi, mi aspetto che qualcuno che ha fatto la cavallina, il cerchio di fuoco, no? Che era magari Balilla, e cioè, mi racconto che cos'era lo stadio dei Marmi il sabato, quando c'era il sabato che si facevano queste terrificanti. Ho quello che c'era qui, questo faccio ascoltare un'altra. Questo è stato fatto anche in realtà da un gruppo che ha vissuto a Tufello per un anno, appunto andando a cercare delle storie e poi cercando di raccontarle. Ha un senso questa sigla? Perché tutto girava. Poi ho cominciato, è diventato uno studio televisivo usato da tutte le televisioni, non era soltanto della Rai o soltanto di Mediaset o soltanto di Monte Carlo. ci si è girato, mi ricordo, il pranzo servito con Corrado, con Carlo Lippi, che è una trasmissione famosissima degli anni 80 di Canale 5. Ci si è girato, credo anche ciò che girava anche con Mari, che è una trasmissione della Rai, poi passa anche via di 4, mi sembra, quindi c'erano gli studi televisivi. Questo è un cinema in cui si erano stati girati parecchi film e parecchie cose. Però un'altra cosa sulla via... Aspetta, c'è questo... Ho due domande. Vai intanto, sì, così intanto...